ricordo questa cosa bellissima per me, che però era un'iniziativa che venne portata avanti assieme alla scuola, cioè c'era la sessione delle scuole elementari e c'era il dopo scuola. E ci fu un periodo in cui c'erano una serie di scioperi di fabbriche occupate qua al villaggio, una proprio qua di vita. E ovviamente, sai, noi vivevamo qui, quindi si vedevano i cartelli del sindacato, tutta una serie di cose, e durante le attività a scuola venne fuori questa cosa e quindi si parlò di queste cose qui e le maestre decisero di portarci a visitare una di queste fabbriche occupate, che se non ricordo male era la FARC ed era quindi dei Sudenti. E, una fabbrica, secondo me, facevano abbigliamento, lingerie, robe del genere, erano tutte donne e ci portarono a visitare questa fabbrica e quindi noi andammo dentro così e poi parlammo con queste donne che stavano occupando per appunto difendere i loro diritti e fu una cosa molto particolare, la ricordo ancora adesso molto bene questo scambio, cioè questi bambini che facevano le loro domande super ingenue a queste signore gentilissime che con tanta passione condividevano il loro momento con dei bambinetti delle scuole elementari, insomma.